dei gran superpoteri, con la forza della mente tira su palazzi interi. E questo potere lo ha ottenuto in modo strano, invece che da un ragno raggi X o sangue umano. Mio fratello è unico perché i suoi poteri arcani li ha presi a pieni voti presso l'Ateneo di Trani. Ancora più incredibile è che ha sudato duro, senza compromessi, senza inciuci, ve lo giuro. In targa con buoni voti ha finito architettura, ha cercato un posto con tenace grande cura. E non ci crederete, lo hanno assunto per davvero. Mio fratello è unico, mio fratello è un uomo vero. Questa città è piena di buoni prepotenti, ad andarsene in giro c'è da stare molto attenti. La scelta è solo tua, non aver quei pentimenti. Ma se non vuoi far fatica siederai fra i delinquenti. Se puoi volar più in alto farai fronte a molti stenti. Ma è solo questa la via che alla vita mette gli accenti. La scusa nuova è buona, la crisi è una poltrona, i poltroni e gli sfattisti te fanno una corona. Parlando nella lucidano come un'ametista, con lei si scusa bene la lor vita a bordo pista. Non è poi così nuova, la storia è sempre quella, si grattano la pancia, vogliono far la vita bella. E poi questo è un paese che mi fa schifo, si lamentano gridando manco avessero la rabbia oppure preso il tifo. A volte perfino pur di non riflettere, pur di non faticare, comprano prodotti delle industrie più criminali o ci vanno a lavorare. Tanto non c'è scelta, tanto è tutto uguale, tanto io che posso fare? Guardali da vicino, sono i super cattivi della CDI Portaglifo. E questa città è piena di buoni prepotenti, da stare molto attenti. La scelta è solo tua, non aver poi pentimenti. Se non vuoi far fatica siederai fra delinquenti. Se vuoi volar più in alto farai fronte a molti stenti. Ma è solo questa la via che alla vita mette gli accenti. E mio fratello è unico, ha dei gran superpoteri, perché si fa un gran mazzo, si sporca nei cantieri. E se la zona è a rischio, ferma tutti i lavori. Forse non è simpatico, raccoglie pochi onori. Ma non ci crederete, salva il mondo per davvero. Mio fratello è unico, mio fratello è un uomo vero.